Voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Do you like apples? Yeah. Well, I got a number. How do you like them apples? Stylé, ok, funky, trop drôle, samedi, trop cool, extra sympa, puissant, dément, piscine, villa, champagne, taxi, ifi, Dolby, Botox, glamour, sexy, crazy. T'es trop VIP! T'es trop VIP! È la seconda parte di Eclettica, quella che è cominciata con Catherine, artista che io ho sempre definito come francese. Poi mi è arrivato un mail da Galway, dove c'è uno studente italiano che sta facendo l'Erasmus e che grazie al podcasting riesce a mantenere il contatto con Eclettica e che convive con uno studente francese, anche lui, là per l'Erasmus, e mi ha detto che prima di tutto Catherine e la sua band sono bretoni, poi in seconda battuta sono francesi. Ce li siamo ascoltati con il brano che da sempre ci stiamo ascoltando grazie all'ultimo disco uscito per Bungalow, ma ho intenzione di passare su un altro pezzo. Vi ho già fatto un accenno all'inizio della prima parte, vedo di darvi un altro pizzico di informazione in questa seconda parte di Eclettica. Ci sarà un qualcosa, non so se chiamarlo DJ set, non mi piace chiamarlo DJ set perché comunque identifica un certo tipo di struttura, anche un certo tipo di attenzione che deve catturare chi il DJ set fa, ma invece in questo caso si parla di atmosfera e quindi l'atmosfera deve permeare tutto un ambiente. Vi dico una data ed un luogo in modo che cominciate ad appuntarlo sulle agende per questa prima, poi vedremo come definirla. Io ho già un'idea in testa, ce l'ho. Comunque sarà il 30 di marzo, che è un venerdì sera, e la città si trova in Toscana ed è la città di Arezzo. Ma guarda un po', chi guarda con attenzione la mia pagina di MySpace probabilmente aveva già questo tipo di informazione o perlomeno questo tipo di sospetto. Proseguiamo con la musica, con un disco che arriva a noi grazie all'Out of Line, che già ci stiamo ascoltando dalla scorsa settimana qua all'interno di Eclettica. un singolo che bisognerebbe, diciamo, rispettando i canoni radiofonici, trasmettere, ma in Eclettica i canoni sono usati per essere scardinati, diciamo così, e in effetti, trovando più gusto, più piacere nell'ascolto e quindi anche nella trasmissione di uno dei remix, io vado con il remix che si chiama Dobro Love Mix Guitar One by Busta, sì, proprio lui, Busta di Subsonica. Il brano è il nuovo singolo delle Client dal titolo Drive, che anticipa quello che sarà il loro nuovo album Heartland, fra pochi giorni nei negozi di dischi. This bow and arrow, I'm gonna give my hand away.

me back. Just 50 pence left. Do not leave this ghost. It's late. You should know it. But you gotta call me back. Just 50 pence I know. Left. But you gotta call me back. Do not leave this ghost unattended. I didn't get on Kathy last night. No? No. Why not? Oh, no. Kathy! What? Why didn't you give me none of that nasty little hoochie-woochie you usually throw at me? Oh, fuck you and your Irish curse, Chucky. Like, I'd waste my energy spreading my legs for that Tootsie Roll dick. So go home and give it a tug yourself. Tootsie Roll! She's missing a tooth, well. I was thinking about another time, still in my mind. Well, I used to know a little girl high on this world. Your baby loves you more than you know. Raised on revelry and rock and roll. Talk about astrology. She was born in June. She danced with strangers and celebrities, empty stars in the full moon. I was thinking about the universe for what it's worth. All the one about the phoenix bird, the tide and return. Angels love you more than you know. Raised on robbery and rock and roll. Moving to the motor city soul. Moving to the motor city soul. Sometimes to go on the radio, on the radio, on the radio. The angels love you more on the radio, broken radio. E si è anche quasi chiusa quella che è la seconda parte di Eclettica di questa settimana, la coppiata Jesse Malin e Bruce Springsteen, Broken Radio, il titolo del brano che ci siamo appena ascoltati dall'album Glitter in the Gutter di Jesse Malin, album che ha per titolo quello che già vi ho detto. Cosa stavo cercando di dire di più? Non lo so. Giulio Caperdoni, quindi, che è arrivato alla chiusura di questa seconda parte di Eclettica, vi ricordo l'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com per iscrivervi alla lista nera, per esempio per vincere i biglietti dei concerti che in lista nera metto sempre in palio, in onda magari sì, magari no, magari con un po' di ritardo. I privilegiati della lista nera sanno di che cosa sto parlando. E poi c'è anche l'indirizzo myspace.com/eclettica. Si chiude con la ripubblicazione da parte di Rough Trade di un disco che già, come autoproduzione aveva avuto un notevole seguito. Sto parlando della band Lavender Diamond, la band di Becky Stark, provengono dalla California. Questo è un EP dal titolo The Cavalry of Light e il brano che chiude Eclettica questa sera ha per titolo You Broke My Heart. Eclettica, fine della seconda parte.